Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Dr. Faustus di Christopher Marlowe, traduzione in versi di Rodolfo Wilcock, con Edoardo Siravo e Antonio Salines e, in ordine alfabetico, Francesca Bianco, Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, Roberto Tesconi, Anna Paola Bellaccio, musiche Francesco Verdinelli, regia Carlo Emilio Lerici. Nozzi d'amore alla corte di un regno sovvertito, e neanche nello sfarzo di prodezze superbe che la nostra musa sfoggia alto il verso. No, solo vogliamo, signori, presentarvi le fortune di Faust, buone o cattive. Chiediamo venia alla vostra pazienza e parliamo per lui della sua infanzia. Dunque, egli è nato da genitori umili nella città tedesca chiamata Roda. Poi, più maturo, si trasferì a Wittenberg, dove fu educato dai parenti. Oh, tanto eccelleva nella religione e nel pascolo fertile del sapere, che presto ottenne il titolo di dottore. Sì, Dr. Faustus, primo tra quelli che amano discutere di argomenti celesti, di teologia, finché, gonfio di scienza presuntuosa, troppo in alto, volle alzare le sue ali di cera che il cielo sciolse per farlo cadere, perché attirato da pratiche diaboliche e stanco dei tesori del sapere, si è dato alla nefanda negromanzia. Nulla gli piace più della magia che egli mette al di sopra del sommo bene. Faust! Faust! Faust! Faust! Faust, pondera i tuoi studi e comincia a scandagliare quello che preferisci! Fa sì, teologo, poiché sei laureato, ma studia bene tutte le altre arti! Sì, medico, fa mucchi d'oro, eternati con qualche guarigione miracolosa! Faust! Ma quello scopo l'hai raggiunto! Ben altro scopo merita il tuo ingegno! Ah, potessi fare gli uomini immortali, ridare la vita a un uomo morto! Allora sì, questo mestiere sarebbe apprezzabile! E invece dobbiamo morire di morte eterna! E come chiameresti tu questa dottrina? Quel che sarà, sarà? Faust? Faust? Faust? Faust? Faust? Eccolo, guardate, è lui, Faust, seduto nel suo studio, coi suoi pensieri. Sì, addio teologia. Ma queste metafisiche dei maghi e questi libri negromantici sono divini, linee, caratteri, scene, cerchi, lettere. Sì, questo è quel che Faust più desidera. Ah, quale mondo di piacere, di profitto, di potere, di onori, di onnipotenza è qui promesso all'artista studioso. Tutto ciò che si muove tra i poli immobili mi ubbidirà. Un re, un imperatore comanda solo sulla sua provincia, non chiama i venti, non squarcia le nuvole. E il regno di colui che eccelle in questo giunge fin dove giunge la mente umana. Un mago esperto è un dio potente. E allora studia, Faust, studia e diventi anche tu dio. Madama Wagner, Madama Wagner! Arrivo! Eccomi. Vai subito a chiamare i miei cari amici Cornelio e Wagner il tedesco e di loro di raggiungermi urgentemente. Vado subito, signore. Conferire con loro mi gioverà più di qualsiasi intenso studio. Lascia quei libri dannati. Non li guardare. Potrebbero tentarti e far calare sul tuo capo l'ira di Dio. Leggi, leggi i Vangeli, quello che studi, e bestemmia. No, Faust, impara l'arte famosa che racchiude il tesoro della natura, sì sulla terra come Giove nel cielo, re e signore di questi elementi. Come mi pasce l'anima questa idea! Mi farò dare tutto dagli spiriti, scioglieranno ogni mia perplessità, ma saranno capaci anche di assurde imprese. Sì, sì, io li spedirò in India in cerca d'oro, a saccheggiare il mare di perle, frugheranno in ogni angolo del mondo nuovo per frutti ghiotti e cibi principeschi, mi leggeranno di strane filosofie e mi diranno i segreti di tutti i re stranieri. Dottor Faust, sono arrivati i maghi. Venite, venite, Valdes il tedesco e Cornelio. Mai liber, dottor Faust. Ben trovato, dottor Faust. Fatemi beato col vostro sapere. Le vostre parole mi hanno spinto a capire la magia e mi hanno persuaso a studiare anche le arti occulte, ma non solo voi, anche la mia fantasia che nella mente non ha altro oggetto che pensieri di arte negromantica. Odiosa, oscura è la filosofia e la legge, e le arti mediche sono per spiriti magri. E peggio ancora è la teologia, aspra, spiacevole, disprezzabile, vile. La magia, questa questa mi rapisce. E per questo io vi ho chiesto di aiutarmi, miei cari amici. Questi libri, il tuo ingegno e la nostra pratica faranno sì che ogni popolo ci santifichi, come gli indiani schiavi degli spagnoli. Così i sudditi di ogni elemento saranno sempre a noi tre servizievoli. Come leoni ci guideranno, come alemanni a cavallo con scudi e lance, o come lapponi giganti ci seguiranno, e a volte come donne o come vergini dall'alto ciglio che ombreggia più bellezza di quanta ne abbia Venere tra i suoi seni bianchi. E da Venezia ci porteranno navi strapiene, e dall'America il vello d'oro che riempirà le arche del vecchio Filippo, se il savio Faust è davvero deciso. Sono così deciso, Valdes, come tu a vivere. Per questo io vi ho chiesto di aiutarmi. Faust, i miracoli della magia ti faranno lasciare ogni altro studio. Colui che è dotto in astrologia, o ricco in lingue, o versato in minerali, ha tutto ciò che quest'arte richiede. Sì, certo, che sarai famoso. E per questo mistero, più frequentato che l'oracolo delfico nei tempi andati. Pensa che dicono i demoni che possono svuotare il mare e trarne l'oro dei naufragi, sì, e i tesori che gli antichi nascosero nelle massicce viscere della terra. E allora, Faust, che altro possiamo chiedere? Che altro possiamo chiedere? Niente, niente. Voi mi rallegrate l'animo. E adesso insegnatemi pure l'arte negromantica, delle prove di magia perché io possa evocare gli spiriti e possedere tutte queste immense gioie. Dovrai andare in un bosco deserto con le opere di Albert e di Bacone, i salmi ebraici e il Nuovo Testamento, e altre cose ti serviranno, Faust, altre cose, e noi te le daremo, Faust, te le daremo prima che finisca la nostra conferenza. E che impari adesso le parole d'arte, e quando ne avrà preso le cerimonie, proverà quel che può fare da solo. Ma prima dovrò insegnarti i rudimenti, dottor Faust, e poi sarai più perfetto di me. E allora andiamo a tavola. Ma subito dopo cena mi spiegherete ogni particolare. Voglio evocare gli spiriti del bosco. Dovessi morire, lo giuro, lo farò al più presto. Sagge parole, sagge parole. E allora andiamo! Andiamo! Ma dove si sarà cacciato? Sono settimane, settimane che non riusciamo a incontrarlo. Anch'io mi domando che ne sarà stato di Faust, che faceva tremare le nostre scuole con i suoi sic probo. Ah, ma presto lo sapremo. Guarda, sta arrivando la sua governante, Madama Wagner. Ehi, donna. Sì? Dov'è il tuo padrone? Dov'è? Dio in cielo lo sa. Come tu non lo sai? Io lo so, ma non è conseguenza logica. Andiamo, smetti di scherzare e dici dov'è. Dov'è? Non lo si può dedurre per forza di argomento. Pertanto voi che siete laureati non dovreste insistere. Dunque, riconoscete il vostro errore. D'ora in poi fate più attenzione. Ma non hai detto che lo sapevi? Ne avete testimoni? Ma sì, furbona, io ti ho sentita. Chiedi al mio compare se sono un ladro. Allora, non ce lo vuoi dire? Sì, signori, ve lo dirò. Ah. Tuttavia, se non foste degli asini, cosa? Non mi avreste mai rivolto una domanda simile. Forse egli non è un corpus naturale? E di conseguenza mobile? E allora perché mi avete rivolto una domanda simile? Se non fosse di natura flemmatica, lenta nell'ira e prona alla lascivia, anzi all'amore direi, non riuscireste ad avvicinarvi a più di 40 passi dal luogo dell'esecuzione, anche se sono convinta che vi vedrò tutte e due impiccati alla prossima seduta? Beh, ora che vi ho sconfitto, farò la puritana e vi parlerò così. Invero, cari miei fratelli, il mio padrone è... A casa, a pranzo, con Valdes e Cornelio. Come questa bottiglia, se potesse parlare, sarebbe ben lieta di chiarire alle signorie vostre. E con ciò, che il Signore vi benedica, vi preservi e vi guardi, cari, cari, cari miei fratelli, carissimi. Ma ciò vuol dire che Faust si è dato a quell'arte maledetta per cui quei due si sono coperti d'infamia agli occhi del mondo. Beh, anche se si trattasse di uno sconosciuto e non di un amico che mi è caro, io lo stesso mi preoccuperei. Vieni su, dobbiamo dirla al rettore, forse i suoi saggi consigli riusciranno ancora a salvarlo. Purtroppo temo che niente potrà ormai salvarlo. Ma lo stesso, noi dobbiamo tentare tutto il possibile. Vieni, seguimi da questa parte, andiamo, presto! Che l'ombra buia della terra, cercando gli occhi piovosi di Orione, salta dal mondo antartico sul firmamento e col suo alito nero vela gli spazi. Faust, dai inizio ai tuoi incantamenti. Così vedremo se i demoni rispondono ai tuoi ordini dal momento che li hai pregati e ossequiati. E adesso, coraggio, Faust. Sii risoluto, prova i poteri estremi della magia. Sint mi dei acherontis propizi, valeat numen triplex Jehove, ignei aeri aquatici spiritus, salvete Orientis princeps Belzebub, inferni ardentis monarca, appareat et surgat Mefistofilis, Jehovam et consacratam aquam, quam nunc spargo signumque crucis, quod nunc faccio, et per vota nostra ipse nunc surgat nobis dicatus Mefistofilis! Oh, Vattene! Vattene! Vattene via! Il tuo aspetto è troppo brutto! Torna trasformato in un vecchio francescano! Quel santo aspetto si addice di più ad un diavolo! Com'è pieghevole questo Mefistofele, è pieno di umiltà, di ubbidienza. Ah, ormai sei negromante, laureato, se riesci a dare anche ordini al grande Mefistofele. E allora, Queen Redis Mefistofelis, Fratris Imagine! Ma davvero, Faust, ti piaccio vestito così, da frate? E va bene, dimmi cosa posso fare per te. Ti comando di assistermi tutta la vita, di eseguire qualunque ordine mio, far cadere la luna dalla sua sfera e inondare la terra con gli oceani. Ma no, io sono servo del grande Lucifero e non posso fare nulla senza il suo consenso, sai? Dobbiamo fare solo ciò che egli ordina. E non fu lui a dirti di presentarti a me? No, sono accorso per volontà mia. E allora non fu il mio scongiuro ad evocarti? Parla! Sì, sì, sì, sì. Fu la causa, ma per accidente. Vedi, quando qualcuno strazia il nome di Dio, abbiura le scritture e il Salvatore, noi vogliamo prendergli l'anima gloriosa, ma solo se gli adopera quei mezzi che comportano il rischio di dannazione. Perciò la via più breve per evocarci è abbiurare con forza la Trinità, pregando Rio, il Dio, il re dell'inferno, con zelo. Così io ho fatto e affermo anche questo principio. Non c'è altro capo al mondo che il grande Belzebù, al quale Faust dedica se stesso. La parola condanna non mi spaventa, perché confonde l'inferno con l'Eliso. Resti il suo spirito pure con gli antichi filosofi, ma lasciamo stare adesso queste inezie sull'anima e dimmi piuttosto, chi è Lucifero, il tuo signore? Padrone e arcireggente dell'inferno. Ma una volta non era un angelo? Sì. E Dio l'amava teneramente. E com'è che adesso Lucifero è il principe dei diavoli? Ah, per orgoglio e insolente ambizione Dio lo cacciò dalla faccia del cielo. Voi chi siete che state con Lucifero? Miseri spiriti caduti con Lucifero, ribelli contro Dio con Lucifero e dannati per sempre con Lucifero. Dove? Dove siete dannati? nell'inferno. E com'è che ora tu sei fuori dall'inferno? Ma questo è inferno e non ne sono fuori. Ma credi che io, che vidi in faccia a Dio, che assaggiai le gioie del cielo eterno, non sia straziato da 10.000 inferni, privo ormai dell'eterna beatitudine? Faust, smetti queste domande frivole che mi riempiono l'animo di terrore. E così il grande Mefistofele è afflitto perché ha perso le gioie del paradiso. Guardami, guardami e impara la fortezza virile e a disprezzare quello che non avrai mai più. E porta al grande Lucifero questo messaggio, dato che Faust è condannato a morte eterna, perché dispera della somma deità, tu gli dirai che egli gli consegna l'anima, purché per 24 anni lo lasci vivere in mezzo a tutte le voluttà, purché tu rimanga sempre al mio servizio, mi dia ogni cosa che io ti chieda, che tu uccida i miei nemici e salvi i miei amici e obbedisca a qualunque mio comando. E ora va, torna dal potente Lucifero. Verrai a mezzanotte nel mio studio per dirmi che cosa ha deciso il tuo padrone. D'accordo, Faust. Vado. Se avessi un firmamento intero d'anime, tutte le cederei per Mefistofele. Io diverrò imperatore con lui del mondo. Io farò un ponte teso nell'aria aperta per varcare l'oceano con il mio esercito. Riunirò i monti costieri dell'Africa per farne un continente unico con la Spagna. E ora che ho ottenuto quello che volevo, rimarrò a speculare su quest'arte finché non torni Mefistofele. Mi chiama? Senti, donna, spero che tu abbia visto tanti bei ragazzi con questa barbetta. Ragazzo, mi chiama. Dimmi un po', hai qualche entrata? Donna, ho qualche entrata e anche qualche uscita, come potete ben vedere. Ahimè, povero schiavo, guardate come scherza la miseria con la propria nudità. Il villano è pelato, senza lavoro e con una fame addosso che venderebbe l'anima al diavolo per una coscia di montone, perfino cruda! Proprio, proprio l'anima al diavolo per una coscia di montone, perfino cruda! Ti sbagli, donna! Io la vorrei ben cotta, ben arrostita e con tutto il suo bel sughetto, se devo pagarla così cara! Va bene, senti, vuoi entrare al mio servizio? Ti farò girare come qui mi discipulus! Pulus? Pullu pollo? Oh, Cribbio, questa parla spagnolo! No, stupido, smetti! smettila di scherzare, buffone, e facciamo un contratto per 7 anni. Altrimenti trasformo tutti i pidocchi che hai in corpo in diavoli che ti faranno a pezzi. Dite bene, donna, dite bene. In questo vi risparmio la fatica, perché se la sanno cavare bene, benissimo da soli. Si prendono certe libertà con le mie carni, per Dio, come se avessero pagato vita e alloggio. Mi senti? Sì, signora. Prendi questi scudi? Sì, signora. E adesso ti sei impegnato a presentarti con un'ora di preavviso ovunque, quandunque il diavolo voglia venire a prenderti. Oh, no, signora, si riprende i suoi scudi, io non li voglio. Nemmeno io. Oh, neppure io. Siete testimoni che glieli ho dati. Siete testimoni che glieli ho restituiti. E allora farò venire qui 2 spiriti che ti porteranno via. Banio! Ruttone! Sì! Ruttone! Ruttone! Fate venire Ruttone! Che gli faccio un bel rutto! Io non ho paura dei diavoli! E allora adesso farai come ti dico. Sì, signora, sì, signora. Però mandate via gli spiriti, sì. Via spiriti! Sono andati? Sì. E adesso? Sì. Seguimi. Sì. Signora, prima però mi insegnerete a scacciare i demoni. Ti insegnerò a trasformarti in qualunque cosa, un cane, un gatto, un sorcio, o in quello che vuoi. Dio mio, una creatura umana trasformata in cane, in gatto, in sorcio. Oh, no, signora, io voglio essere trasformato in una bella pulcetta che saltella di qua e di là e va a solleticare le belle fanciulle. Grazie, donna. Villano, chiamami Madama Wagner. Oh, boh. Ed ora in poi dovrai tenere il tuo occhio sinistro diametralmente fisso sul mio calcagno destro. Per quasi vestigis nostris insistere. Cribbio, parla anche olandese. Ma che ci posso fare? Se la devo seguire, la seguirò. Faust. Ormai è deciso e non ti puoi salvare. È inutile pensare a Dio, al cielo. Lascia, lascia questi vani pensieri e non sperare nulla da Dio. Spera piuttosto in Belzebù. Ma perché esitare? Qualcosa mi dice: abiura la magia, torna a Dio. A Dio? Egli non ti ama. Il Dio che tu adori è il tuo appetito, dove non c'è altro posto se non per Belzebù. Io gli costruirò una chiesa e sull'altare gli offrirò sangue tiepido di neonati. Buon Faust, ma lascia quest'arte esecrabile. Ma perché? Perché non fai costrizione? Pentiti, prega. Sono questi i mezzi per salire al cielo. Sono illusioni, frutto della follia. E chi più crede in essi, più diventa scemo. Pensa al cielo, Faust, e alle cose del cielo. No, pensa alla ricchezza, all'onore. Il regno di Mida sarà tuo. E con Mefistofele accanto a te, Faust, nessun dio può nuocerti. E allora vieni, Mefistofele, con la buona novella di Lucifero. Non è già mezzanotte? Vieni, vieni, Mefistofilis! Allora, che cosa ti ha detto Lucifero, il tuo padrone? Che ti dovrò servire fino alla morte. e pagherai con l'anima il mio servizio. Ma quella te l'ha già donata, Faust, per te. Sì, ma devi legargliela solennemente e scrivere un contratto col tuo sangue. Il gran Lucifero vuole delle garanzie. Se ti rifiuti, me ne torno all'inferno. Aspetta! Aspetta, Mefistofele, dimmi. Perché il tuo signore ci tiene tanto alla mia anima? Per allargare il suo regno. Ed è per questo allora che ci tenta tutti così. È un conforto per gli infelici avere compagni nella disgrazia. Ah, sì. E così anche voi soffrite per le torture. Più di quanto ne soffrano le anime umane. Dimmi, Faust, mi darai la tua? Io ti sarò servo, schiavo. Ti darò più di quanto tu potrai chiedere. Ah sì, Mefistofele, te la darò. E allora fatti un taglio sul braccio e col tuo sangue impegna l'anima in modo che possa Lucifero venire un giorno a reclamarla. E poi, Faust, tu sarai grande come il grande Lucifero. Mefistofele, guarda, per compiacerti io mi taglio qui sul braccio e col mio sangue impegno l'anima al grande Lucifero, re e signore della notte eterna. Guardalo grondare dal mio braccio. Aspetta, aspetta, Faust. Devi scriverlo in forma di contratto, qua. Ma sì, lo farò. Ma guarda, Mefistofele! Io non posso scrivere, il sangue si è gelato! Gli darò del fuoco per scioglierlo. Che vorrà dire questo sangue che si ferma? Forse qualcuno non vuole che io scriva il contratto? Faust ti cede l'anima e lì si è fermato. Perché non è forse tua l'anima? Ecco il fuoco. Scaldalo! Ecco, ora il sangue scorre come prima. Cosa non farei pur di carpirgli l'anima? Mi metto all'opera immediatamente. Consummatum est. Ecco il contratto. E così Faust ha dato l'anima al grande Lucifero. Ma che cos'è? Che cos'è questa scritta sul mio braccio? Homo, fugge! E dove dovrei fuggire? Se torni a Dio, quello ti butta all'inferno. Ma sì, è chiaro, proprio qui è scritto Homo, fugge! Ma Faust non fuggirà! Faust non fuggirà! Faust non fuggirà! Devo trovare qualcosa per distrarlo. Faust! Volevo divertirti e mostrarti il potere della magia. Ma ora posso evocare anche io gli spiriti? Ma certo, e fare cose più notevoli. è quel che basta per donare anche 1000 anime. Ecco, ecco la pergamena Mefistofele con la quale io ti dono anima e corpo. Ma a condizione che tu eseguisca ognuno degli articoli qui prescritti. Giuro per l'inferno e Lucifero che manterrò tutte le mie promesse. Primo, che Faust possa diventare uno spirito sia nella forma che nella sostanza. Certo, certo. Secondo, che Mefistofele sarà il suo servitore e ubbidirà ai suoi ordini. Beh, sì, si può fare. Terzo, che Mefistofele farà per lui e gli procurerà qualunque cosa. Qualunque cosa. Quarto, che nella sua camera o abitazione Mefistofele sarà invisibile. Come? Ma naturalmente. Infine, che egli accorrerà presso il suddetto dottor Johannes Faustus in qualunque momento, aspetto e forma che gli sia richiesta. Affare fatto. Io, Johannes Faustus di Wittenberg, dottore, con la presente cedo il corpo e l'anima a Lucifero, principe dell'Oriente, e al suo ministro Mefistofele. E inoltre concedo loro, purché trascorsi 24 anni senza violazione dei precedenti articoli, il pieno potere di prendere e portare via il suddetto Johannes Faustus, corpo, anima, sangue, beni, nella loro dimora, ovunque essa si trovi. Firmato Johannes Faustus. Dimmi, Faust, sei consapevole, è vero, di ciò che hai scritto nel contratto? Sì, sì. Prendilo e che il diavolo te ne renda merito. E adesso, Faust, tu chiedi ciò che vuoi. Prima, qualche domanda sull'inferno. Dov'è? Dov'è il luogo che gli uomini chiamano inferno? Sotto il cielo. Ma lo so, ma in quale posto? Entro le viscere di questi elementi, dove siamo per sempre torturati. L'inferno non ha limiti, non è racchiuso in nessun luogo. Inferno è dove siamo. E dove siamo? Dobbiamo stare tutti. Infine, quando il mondo verrà sciolto e ogni creatura purificata, diverrà inferno ciò che non è cielo. Ma che? Per me l'inferno non è che una favola. Aspetta, e poi cambierai idea. Perché tu credi che io sarò dannato? Sicuramente. Ecco il contratto dove hai ceduto l'anima a Lucifero. Sì, e anche il corpo. Ma questo che importanza ha? Credi che io sia così sciocco da credere che dopo questa vita si possa ancora soffrire? Queste sono chiacchiere, storie di vecchie donnette. Ah sì? E io, Faust, non dimostro il contrario, che fui dannato e ora sono in inferno? Appunto, l'inferno! Ma se questo è l'inferno, non mi preoccupa affatto esservi condannato. Ma cambiando discorso, io adesso voglio una moglie, sì, voglio la più bella ragazza di Germania, perché sono lascivo e licenzioso. Io non so vivere senza una moglie. No, una moglie no. Chiedimi ciò che vuoi, ma una moglie no. Mefistofele, io ti ordino immediatamente di portarmi qui una moglie. Va bene, te la darò. Per tutti i diavoli, il matrimonio è un inferno. A chi calcaue? Chi è a chi tuo? I Dighe! Matrimonio non è che una sciocchezza cerimoniale. Se mi vuoi bene, non pensarci più. Io ti darò le più belle cortigiane. Ogni mattina saranno nel tuo letto. Qualsiasi donna, vedi, se vuoi l'avrai. Fosse pure pudica come Penelope, saggia come fu Saba, o risplendente come fu Lucifero prima della caduta. E ora guarda attentamente questo libro. Se vuoi dell'oro, ripeti questa frase 3 volte. Oppure tracci un cerchio così per terra e richiami i venti, le tempeste, fulmini, tuoni. Ripeti questo 3 volte con unzione e ti compariranno degli uomini mascherati, pronti a eseguire tutto ciò che vuoi. Grazie, grazie Mefistofele. Ma io vorrei tanto avere anche un altro libro, con tutte le formule magiche, gli incantesimi, per evocare gli spiriti ogni volta che mi piaccia. Sono qua, in questo libro. E allora io voglio ancora un altro libro, con tutti i caratteri, i pianeti del cielo, per conoscerne il moto e la disposizione. Faust, sono anche questi qua, in questo libro. E allora io ne voglio un altro, ancora! E poi basta, le piante, gli alberi e le terre che crescono qui in questo mondo. Vieni, seguimi, sono qua, tutti qua, in questo libro. La vita. Ah, tutti in quel libro, sì. Tutti. Tutti in questo libro. Del dottor Faust e voglio studiare 1 o 2 di questi cerchi solo per conto mio, solo per conto mio. È un cerchio col sale, sale, sì, sale, là, là. Ah! E adesso voglio far ballare tutte le fanciulle della parrocchia, tutte nude, tutte nude, così potrò vedere, sentire e fare tutto quello che non ho visto, sentito e fatto. Roby! Roby! Roby, ti prego, vieni! È arrivato un cavaliere con tutti i suoi arnesi da lucidare, da pulire. E si è messa a litigare con la padrona. E Madame Wagner mi ha mandato a chiamarti. Roby, ti prego, fermo! Fermo! Fermo! non ti avvicinare al cerchio, va. Potresti saltare in aria a pezzi. Sto per fare un lavoro memorabile. Roby, ma che fai con quel libro in mano? Tanto te non sai leggere. Lo vedranno i signori mariti e le signore mogli se non so leggere. Loro lo capiranno dalla propria fronte e le mogli lo capiranno in segreto per quello che gli farò vedere. E questa volta saranno loro a starmi sotto, se la mia magia non mi inganna. Non ho capito, Roby, ma che libro è? Questo libro... Questo è un libro Questo è il libro più intollerabile che mai il demone solforoso abbia mai potuto inventare. Serve per fare gli scongiuri, quello. Sì, posso fare questo ed altro. Posso farti ubriacare di ipocrasso. Ipocrasso? Tutte le taverne d'Europa è gratis. Questa è una mia fattura. E il signor... Il signor curato dice che queste cose non sono possibili. Non è vero, non è vero. Ti piace sempre Anna Spiedo, la nostra sguattera? Eh? Anna Spiedo, la nostra sguattera? Sì. Sì, mi piace tanto. Ma chi quanto? Te l'ha detto? Il popolo mormora. Sì, ma chi te l'ha detto? Non ha importanza chi me l'ha detto. Io posso fartela avere, sì, tutte le volte che voglio. Sì. Te la posso girare, rigirare, rivoltare, eppure a mezzanotte. Bravo, Roby! Ma davvero io potrò godermi Anna Spiedo tutta sola per me? Sì. E beh, a questo patto io darò da mangiare al diavolo torta d'avena fino alla fine dei suoi giorni. Basta, zitto, Ralf! Adesso andiamo a pulire gli stivali sporchi di terra e poi... E poi faremo gli scongiuri in nome del diavolo! Gli scongiuri! Occhio sinistro. Eh? Tallone destro. E... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dimmi... Dimmi, Mefistofele, chi ha fatto il mondo? No, non te lo posso dire. Tu devi dirmi chi ha fatto il mondo. Chiedimi qualunque cosa, ma questo no. Non mi avevi promesso di dirmi qualsiasi cosa sì. Io ti chiedessi? Purché non sia contro il nostro regno. E questo lo è. Pensa all'inferno, Fausto, ormai sei condannato. E tu pensa a Dio che ha fatto il mondo. E tu pensa all'inferno. Tu pensa a Dio. Penso all'inferno. Ricordalo. L'inferno. Vattene! Vattene al brutto inferno! Dannato spirito! Tu hai condannato la mia anima infelice! Faust! Faust, pentiti! E Dio ti perdonerà! Dio non può perdonarti perché sei un demone. Chi è che soffia nel mio orecchio che io sono un demone o sia anche un diavolo? Dio può perdonarmi. Se io mi pento, sì, Dio mi perdonerà. Certo, ma Faust non si pentirà mai. È troppo tardi. No, non è troppo tardi se Faust può pentirsi. Pentiti e i diavoli ti faranno a pezzi. Se Faust si pente, nemmeno lo sfioreranno. Cristo, Cristo, Cristo, Salvatore mio, prova a salvare la mia anima infelice. Cristo non può salvarla perché è giusto. Soltanto io ho diritto su di essa. E tu chi sei con quell'aspetto terribile? Sono Lucifero e Belzebù è il mio compagno, principe dell'inferno. Faust! Faust! Vengono a carpirti l'anima! No, sono offesi perché hai disobbedito ai loro ordini. Parli di Cristo contro la tua promessa. Non devi pensare a Dio. Devi pensare al diavolo. E devi pensare anche alla sua povera nonna. No, io non lo farò mai più. Io vi chiedo perdono, giuro. che non guarderò mai più il cielo, giuro che non nominerò mai più Dio, brucerò i suoi vangeli, scozzerò i suoi sacerdoti e abbatterò i suoi templi. Fallo e te ne saremo molto grati. Ah, Faust, siamo venuti dall'inferno e vedrai, l'inferno è un luogo pieno di delizie. Ah, se potessi vederlo almeno una volta, l'inferno, e poi tornare qui, io ne sarei felice. Lo vedrai, lo vedrai. A mezzanotte ti manderò a prendere. Poi potrai assumere ogni aspetto e forma che desideri. Grazie, grazie, potente Lucifero. E ora, Faust, arrivederci. E pensa al diavolo! Arrivederci, grande, grande Lucifero! E ora, Mefistofele, andiamo! Io voglio vedere tutte le bellezze del mondo! E va bene, seguimi, ti farò vedere il mondo, Faust, seguimi! Voglio vedere tutte le bellezze del mondo, Mefistofele! Dottor Faust, per scoprire i segreti dell'arte e dell'astronomia scritti sul libro dell'Empireo di Giove, volle scalare la vetta dell'Olimpo e, seduto su un carro splendente, legato al collo forte di due draghi, vide le nuvole, le stelle, i pianeti, i quarti e i tropici e le zone del cielo. Dal cerchio lucente della luna cornata fino alle altezze del primum mobile, e roteando nella circonferenza entro lo spazio concavo tra i poli, da est a ovest volano i suoi draghi che in 8 giorni lo riportano indietro. Ma non rimase a lungo chiuso in casa per riposarsi dalle fatiche. No, nuove avventure lo richiamano ancora, e risalendo sul dorso di un drago che con le ali divide l'aria sottile, vola ad accertarsi della scienza cosmografica che misura le coste e le frontiere, e credo che stia per arrivare a Roma per incontrare il pontefice e la sua corte e assistere alla festa di San Pietro, che oggi pare si stia festeggiando molto solennemente. Dopo che abbiamo visto con gran piacere, caro Mefistofele, la maestosa Treviri e le sue montagne alte e scoscese, e poi Parigi e il suo bel regno con le valli fertili di splendide vigne, e poi Napoli e la bella Campania con le ville, i maestosi palazzi, così il mio tempo è volato via, poi Padova, Venezia e le altre. Ma adesso dimmi, Mefistofele, mi hai portato come ti avevo chiesto, nella grande città di Roma? Infatti, e questo è il palazzo maestoso del Papa. E siccome noi siamo ospiti di riguardo, ho scelto la sua camera da letto. Ah, beh, che ci riceva degnamente, allora. Beh, so che vuoi vedere il Papa e assistere alla festa di San Pietro là vedrai stormi di frati pelati, il cui unico bene supremo è un buon pranzo. E allora, sì, mi offrirò ogni svago pur di giocarmi della loro follia. E allora adesso incantami, rendimi invisibile, sicché io possa fare, non visto da nessuno qui a Roma, tutto quel che io voglio. Vai, Stigue, amore, fiel, che ti do. Au, au, au. Ora fa ciò che vuoi, Faust. Non ti vedrà nessuno. Ma fratelli, guardate se c'è qualcuno! Qui non c'è nessuno, se Sua Santità permette. Ah, monsignore, monsignore, guardate, questo piatto prelibato me lo ha inviato il vescovo di Milano. E allora me lo mangio io! Ma chi ha preso il piatto? Ma fratelli, insomma, ma dove avete gli occhi? Ah, monsignore, guardate questo piatto che invece mi ha inviato il cardinale di Firenze. Che profumo! Eppure questo me lo mangio io! Ancora? Ma insomma, ma chi è che ha preso il piatto? Ma fratelli, insomma. Monsignore, sì. Monsignore, io brindo alla vostra salute. Buon pro di faccia, prosit! Sua santità, sarà sicuramente qualche anima testè fuggita dal purgatorio per cercare il suo perdono. Beh, può darsi. Ma questo è il segno della croce, questo è un trucco! Un terribile trucco, un orrendo trucco! Fratelli! Presto! Preparate una messa per calmare la furia di questi spiriti! Mi sono divertito. Ora ci scomunicheranno con le loro cerimonie. Come era con la campana, il libro, l'incenso e tutto questo per scomunicare me. Ma attendi, perché adesso stanno per tornare. Sì, stanno per tornare con... Sentiremo belare una capra, sentiremo ruggire un leone, sentiremo grugnire un porco, perché sta arrivando la festa di San Pietro! E facciamo il nostro dovere con vera devozione. Maledicato Dominus! Maledetto colui che rubò il cibo dalla tavola di Sua Santità! Maledicato Dominus! Maledetto colui che colpì Sua Santità in faccia! Maledicato Dominus! Maledetto colui che colpì frassandolo sulla pelata! Maledicato Dominus! Maledetto colui che disturba la nostra santa antifona! Maledicato Dominus! Maledetto colui che portò via il vino di sua santità. Maledica Dominus e Domine Santi. Siamo proprio molto, molto divertiti. Ma adesso che cosa facciamo, eh? Dove possiamo andare a continuare questa nostra bella storia? Perché non andiamo adesso a trovare il Gran Turco? Sì, andiamo alla corte del Gran Turco. Allora andiamo a Costantinopoli. Faust. Ta ta ta ta. Vieni, Ralph, vieni! Non ti avevo detto che con questo libro del dottor Faust saremmo diventati ricchi? Ricchi no, sbronzi sì! Ippa, ippa, ippa! Grasso, grasso, grasso! Eccesignum! Ecco, questo è un lavoro per due stallieri! I nostri cavalli non mangeranno più un filo di fieno finché questo duri! Robin! Ralph! Sta arrivando Madame Wagner! Zitto! Ralph! Zitto, vedrai che burla memorabile! Sì! Ah, eccovi qui! Madame Wagner, che Dio vi guardi! E che Dio vi guardi! Andiamo, Ralph! Sì! Un momento, mascalzoni, una parola! Dovete restituirmi un libro del dottor Faust prima di andarvene. Io? Un libro? Ralph, io? Un libro? Robin, tu io? Un libro? Ma io un libro? Ma che razza di... Voi mentite! Perché non mi perquisite? Ah, è proprio quello che volevo fare, se non ti dispiace. No. E quindi adesso devo scambiare due parole con il tuo compare. Tu, Manigoldo, qua. Io, Manigoldo? Tu, Manigoldo! Io, Manigoldo! Io, Manigoldo! Tu, Manigoldo, là. Io, Manigoldo, perquisite fin dove volete. Ti piace? Ah, sì, un pochettino. Sì, ancora! E ora, signora, voi vi vergognerete di sbugiardare due persone oneste come noi? Eppure uno di voi due ha quel libro addosso. Vi sbagliate, Madame Wagner. Noi il libro non l'abbiamo. E non l'abbiamo. Cagna carogna! Ti faccio vedere io insultare due persone da solo! Ferma, va dietro. Vai, là. Là. Più là, ho più detto. Là. Oh, non si muove! Più là, t'ha detto! In nome di Belzebù! Vuoi dire canaglia? Faccio vedere io che cosa ti voglio dire. Sanctorum! Parafristicum! Belzeboram Framanto Pacostifos Tast Mephistofele. sotto il cui nero sguardo i più potenti si piegano tremanti, su cui altari giacciono mille anime. Ma perché devo obbedire a questi due cialtroni? Sono venuto fin qui da Costantinopoli per far piacere a questi dannati. Come da Costantinopoli? Devi aver fatto molta strada. Sarai stanco, affamato. Perché? Perché non ti prendi questi scudi? Sì. Per pagarti la cena e il bere e poi te ne vai? Io t'accudo! Questo è l'uicchio! Un cribbio. Ecco. Per la vostra presunzione vi trasformerò tu in una scimmia e tu in un cane. Hai sentito? E adesso torna a Costantinopoli dal mio Faust. E chi vuoi? Chi è Uti? Wow. Ron, io una scimmia. Mi è sempre piaciuto fare la scimmia. Vedrai come mi diverto con i ragazzi che mi tireranno noci, mele. E io invece dovrò fare il cane. Già ti ci vedo col muso dentro la ciotola tutto il giorno nella minestra. Gli amici e i suoi compagni più cari si rallegrarono per il suo felice ritorno e mentre discorrevano degli eventi dei suoi viaggi per l'aria e per la terra gli posero quesiti di astronomia a cui Faust rispose con così tanta scienza da lasciar tutti quanti stupiti per il suo ingegno. Ormai la sua fama aveva raggiunto ogni paese per le grandi prove che della sua arte egli aveva dato. Ma già all'inferno si preparano i diavoli per portare a Faust la condanna eterna. Verranno a chiedergli l'anima. Ha goduto il mondo e ora il suo sangue si gela per l'angoscia e i suoi molti piaceri presto avranno il sapore del dolore. E Faust lo sa ed è per questo che lui ha steso il suo testamento. Forse il mio padrone si prepara a morire perché mi ha regalato tutti i suoi beni. Eppure penso Se dovesse morire, non starebbe a pranzare e a spassarsela come stasera con i suoi amici, seduti intorno a tavolo fra tante leccornie, quante mai ne ho viste in vita mia. Ah, eccoli qui. Sarà finito il pranzo. Dottor Faust, dopo il nostro ultimo discorso sulla bellezza delle donne, su quale fosse stata la più bella del mondo, siamo giunti alla conclusione che Elena di Grecia fu la più ammirevole signora mai esistita. Proprio per questo, signor dottore, se lei fosse così gentile da farci vedere questa nobildonna greca senza pari, la cui maestà intera il mondo ammira, noi ve ne saremmo molto riconoscenti. Molto riconoscenti. Signori, poiché io so che la vostra amicizia non è finta, e Faust non è solito rifiutare le giuste suppliche di coloro che lo stimano, vedrete quella greca incomparabile. E ora silenzio, perché c'è pericolo a parlare. Troppo rozzo è il mio ingegno per lodare questa maestà che il mondo intero ammira. Ora capisco l'ira dei greci, che punirono con 10 anni di guerra il ratto di Elena, la cui bellezza divina non appari sulla terra. Vista l'opera somma della natura, unico paragone d'eccellenza, ce ne andiamo. Ma per questo atto glorioso, sia Faust lodato e beato per l'eternità. Per l'eternità. Addio allora, signori, addio. E lo stesso io auguro a voi. Grazie. La corsa inarrestabile, Mefistofele, che il tempo segue con calmo e muto piede, mi accorcia i giorni e il filo della vita e mi rammenta la scadenza finale. Non hai più speranza, Faust. Il termine fatale s'avvicina. Io non ho più speranza? E per questo ho paura. Forse un buon sonno mi toglierà i pensieri. Cristo non chiamò il ladro sulla croce? E allora riposa, riposa, Faust, e non pensarci più. Faust, Faust, perché non puoi guidare i tuoi passi verso il destino della vita, dolce sentiero che ti condurrebbe alla meta, il riposo divino? Ferma, Faust, i tuoi passi disperati. Chiedi dunque pietà, Faust, non disperare. Dove sei? Dove sei, Faust? Io sento queste parole confortare la mia anima infelice. No! No, no! È l'inferno che lotta con il cielo e si insinua sempre dentro il mio petto. Come evitare il cappio della morte? Io mi pento! Mi pento! Mi pento! Traditore! Fermo la tua anima! Perché hai disobbedito ai miei comandi? Ravvedi sì! O ti faccio 1000 pezzi! Buon Mefistofele, chiedi al tuo signore pietà per la mia ingiusta presunzione! E col mio sangue io riconfermerò il voto che io ho fatto al grande Lucifero. Fallo subito e rapidamente, per evitare pericoli peggiori. Buon servitore, io però voglio ancora una cosa per saziare la brama del mio cuore. Fammi, Fammi avere quell'Elena divina, quella che ho visto poco fa per concubina. Così i suoi dolci abbracci estingueranno quei dubbi che mi scostano ancora dal voto che io ho fatto al gran Lucifero. E va bene. Questo però sarà il tuo ultimo desiderio. E questo è il volto che mosse mille navi e diede fuoco alle alte torri di Ilio. Rendimi immortale con un bacio, Elena. Vieni, ridammi l'anima. Io qui vivrò, perché il cielo è nelle tue labbra e nessun'altra sarà la mia amante. Dannato sei, dannato. L'inferno ti richiama e la sua voce sussurra: vieni, Faust, è giunta l'ora, vieni. E Faust obbedirà, perché ha promesso. Chi solo il piacere ama, con il piacere troverà la morte. Signori, signori miei cari amici, che sarà di Faust nell'inferno per sempre? Io dovrei appellarmi a Dio, al Dio che io ho esecrato, al Dio che io ho abiurato. Signori, signori, io ho ceduto la mia anima in cambio della scienza. Dio, Dio non voleva, ma io l'ho fatto. Troppo tardi. Signori, addio. Se domattina io sarò ancora vivo, io verrò a trovarmi, altrimenti vorrà dire che Faust se n'è andato all'inferno! Cosa fai? Faust, piangi! Troppo tardi, sai, non potrei più salvarti, devi solo dannarti, ora l'inferno è la tua casa e lì abiterai. Via, non piangere, dispera. Piangono all'inferno i pazzi che ridono sulla terra. Faust, ormai non ti resta che un'ora di vita e poi sarai dannato eternamente. Ferme sfere del cielo sempre in moto, che il tempo cessi e mai giunga mezzanotte. Occhi belli del mondo, sole splendente, risorgi! Accendi un giorno eterno, e che quest'ora duri un anno, un mese, 7 giorni, un giorno! Così Faust si pente e salva l'anima. Lente, currite, nocti sequi! Ma il cielo corre, e l'ora suonerà. Verrà il diavolo e Faust è perduto. Pietà, Lucifero! Ma dov'è? Se n'è andato? E lassù Dio stende il suo braccio e mi guarda col suo sguardo arcigno. Apriti, terra! No, no, no, no, non vuole accogliermi. Oh, voi stelle che regnaste sulla mia vita, predestinandomi alla morte e all'inferno, risucchiatemi adesso come un vapore nelle viscere gravide di quelle nuvole, e l'anima per forza volerà in cielo. Mezz'ora è scorsa e presto sarà la fine. Io se non vuoi perdonare la mia anima, fissa almeno un termine ai miei tormenti. Che Faust viva l'inferno 1000 anni, 100.000 anni, ma infine possa salvarsi. Felici le bestie, perché le anime loro, quando muoiono presto, vengono sciolte in tutti gli elementi. Ma la mia vivrà nel duro inferno. Maledizione ai genitori miei! No, no, no, maledici te, Faust, e Lucifero, che ti ha privato delle gioie del cielo! Suona! Suona! Suona! Dio, Dio mio, non guardarmi! Non guardarmi con tanta ferocia! Ragni! Serpenti rospi! Ipere! Fatemi respirare! Non spalancarti! Orrendo inferno! Io brucerò tutti i miei libri! Mefistofele! È il ramo che poteva crescere diritto, è il lauro d'Apollo che un giorno crebbe in quest'uomo dotto, è bruciato. Faust fu, ricordatevi della sua fine, che l'uomo saggio impari dal suo destino diabolico a rinunciare alle cose illecite, i cui segreti spesso inducono gli ingegni audaci a far di più di quanto il cielo approvi. Lo spettacolo Dr. Faustus di Christopher Marlowe, traduzione in versi di Rodolfo Wilcock, con Edoardo Siravo e Antonio Salines, e in ordine alfabetico Francesca Bianco, Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, Roberto Tesconi, Anna Paola Bellaccio, musiche Francesco Verdinelli, regia Carlo Emilio Lerici. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Sandro Cappelletto, autore e voce narrante dello spettacolo La Banca Universale, liberamente tratto da L'Argent di Émile Zola, Musiche originali di Fabrizio De Rossi, Re, a Roma, al Teatro Palladium, sabato 22 febbraio 2025. Ben trovato. Ben trovati a voi, eccoci qua. Che lavoro è questo? È un lavoro tratto da quel meraviglioso romanzo che è L'Argent, il denaro, di Émile Zola, che parla dell'ascesa e rovinosa caduta e ulteriore rinascita di un grande speculatore finanziario. Mi sembra che in questo momento di Bitcoin, di borse che volano, di bolle che presto si sgonfieranno, la figura di Zola, questo romanzo che trae spunto da un crack bancario della Francia di fine Ottocento, negli stessi anni in cui c'è il crack della banca romana qui in Italia, sia una lezione da tenere a mente. Saccaro è uno che parte da nulla, fonda una banca, compra un giornale, ha amicizie importanti nel governo francese del tempo, convince tutti che investendo su quella banca si diventa ricchi, e poi c'è il crollo, la catastrofe nella quale trascina migliaia di risparmiatori, imprenditori, istituzioni, cose che abbiamo vissuto molti anni. Pensiamo alla Lehman Brothers, pensiamo al fallimento recente della Banca Popolare di Vicenza in Italia. E c'era bisogno, però, naturalmente, riducendo questo romanzo in uno spettacolo, c'era bisogno della capacità che ha solo la musica di creare altre atmosfere, di sogno, di attesa, incalzanti, ambigue, no? Perché lui è un personaggio ambiguo, e Fabrizio De Rossi Re in questo senso ha fatto un eccellente lavoro. Come era nato il progetto di farne uno spettacolo? Dalla bellezza del testo. Siamo molto ignoranti in fatto di informazioni finanziarie, no? Soltanto i professionisti del settore sanno davvero come funzionano le cose. Non so se avete mai provato a compilare attentamente il questionario che vi inviano le banche ogni tot anni sul profilo finanziario. Quanti di noi conoscono quei meccanismi? Ecco, l'ignoranza di quei meccanismi spesso è fatale. In più oggi c'è la globalizzazione degli grandi fondi internazionali, delle grandi banche d'affari internazionali, e difatti il personaggio di Zola, Aristide Saccard, sogna una banca che da Parigi arriva a Roma e da Roma va fin verso la Cina, e da lì attraversa l'oceano e arriva negli Stati Uniti. L'ho trovato fenomenale, attualissimo, perché risponde a un virus dominante nei nostri anni, quello dell'avidità, del possesso, di avere sempre di più, e quando hai sempre di più in beni materiali pensi di poter comprare tutto, anche il corpo e l'anima della persona. È quello che lui pensa Aristide Saccard nel romanzo di Zola. Che passaggio hai fatto dal testo di Zola alla messa in scena? Una potatura piuttosto robusta, salvando i passaggi essenziali, quindi la sua decisione di creare una banca, la sua consapevolezza attraverso i soldi di poter avere tutte le amanti che pensa di avere, e la menzogna, quando comincia a capire che gli affari vanno male, ma naturalmente attraverso il giornale che lui detiene bisogna dire il contrario, che gli affari continuano ad andare bene, fino alla catastrofe finale. Ma lui ha già messo da parte un gruzzoletto in una banca romana, e dopo una lieve condanna viene in Italia, e con questi soldi che ha messo da parte, siccome questo virus appunto è inestinguibile, non c'è vaccino, vuole ricominciare. Non la chiamerà più Banca Universale, la chiamerà Banca Mondiale. Dice che suona bene Banca Mondiale. Questo è il percorso, che è sostanzialmente il percorso raccontato da Émile Zola, naturalmente in una forte sintesi narrativa e con accentuazione di aspetti teatrali, e questo in particolare grazie alla musica. Ecco, com'è il rapporto testo-musica? È fondamentale. De Rossi Re sottolinea con la musica certe sfumature, certe intenzioni, e a sua volta il testo respira grazie alla musica, perché quando la musica sottolinea una parola, quella parola assume un significato, un valore, un'intenzione ancora più forte. Fabrizio, che è un grande esperto di melologhi, cioè di questo tipo di spettacolo in cui al racconto parlato si unisce la musica, Fabrizio ha avuto un rispetto assoluto per il testo, e il testo prende il volo quando c'è la musica di Fabrizio che lo accompagna, sottolinea e lo esalta. Il pianoforte e la melodica, e la melodica aggiunge qualcosa di bizzarro, di grottesco, di satirico, perché in qualche modo Saccard è un personaggio grottesco. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Beh, il sito del Teatro Palladium c'è tutto, naturalmente, c'è la presentazione dello spettacolo e c'è il senso, ecco, di voler riproporre oggi, a 130 anni dopo la creazione, questo romanzo di Zola, perché l'avidità, l'ansia speculativa, la capacità di ingannare dei grandi finanzieri, alcuni di loro, sono rimaste, trovo, intatte. Manca un narratore che, come Zola, sappia raccontare quello che succede nel mondo della finanza globale contemporanea. Naturalmente oggi, con gli strumenti digitali, la capacità di controllo, di manipolazione, di spostamenti in tempo reale si è dilatata tantissimo. E quindi l'incontro, il concerto sarà preceduto da una conversazione di Stefano Lepri, che è uno dei nostri migliori editorialisti di temi economici, che annuncerà, posso dirlo, posso anticipare, quello che ci aspetta nei prossimi mesi e che secondo lui accadrà soprattutto nella finanza statunitense. Lo spettacolo La Banca Universale, liberamente tratto dall'Argent di Émile Zola, musica originale di Fabrizio De Rossi Re, a Roma, al Teatro Palladium, sabato 22 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'autore, voce narrante, Sandro Cappelletto. Alla prossima! Grazie a voi, buon lavoro! Con Giorgio e Irene, curatori dell'evento Frequenze Expo a Roma, al Villaggio Globale, giovedì 20 febbraio 2025, ben trovati. Ciao, grazie mille, grazie mille. Siamo proprio qui ad allestire, quindi situazione precaria ma carichi. Di cosa si tratta? Frequenze Expo è un po' la conclusione di un ciclo di iniziative che abbiamo iniziato nel corso dello scorso anno. È coorganizzato tra la mia realtà che si chiama Split e la realtà di Irene che si chiama Artivismo. Noi ci occupiamo più dell'aspetto tecnico e musicale e loro, come il nome indica, della parte artistica e visiva. L'intento era proprio quello, unire un po' le due anime dell'arte e della musica seguendo un filo conduttore che è quello delle frequenze, che insomma la musica, il suono ha delle frequenze così come il colore, quindi questo è un po' il filo rosso che abbiamo deciso per collegare le due arti, la musica e l'arte visiva. Come si articolerà la giornata? Partiremo dalle 18 fino alle 24. All'interno della serata sarà possibile visitare l'esposizione, perché in tutto questo gli artisti dipingeranno su dei vinili, quindi il supporto pensato appunto per la realizzazione delle opere d'arte è quello del vinile, proprio per connettere sempre la musica e l'arte. Quindi ci sarà il live painting su vinili, dei DJ set e una jam session elettronica, quindi tanti artisti si alterneranno alle console, ai controlli, insomma una serie di strumenti elettronici, quindi la serata andrà avanti così, live painting, esposizione dei vinili realizzati nelle serate precedenti, DJ set, cibo, tantissime attività, anche una bellissima installazione fluorescente e tutto questo nella cornice del Villaggio Globale che insomma è un posto già di per sé magnifico, bellissimo e prenderà ancora più vita, speriamo, insomma, con la nostra iniziativa. Presentiamo anche l'iniziativa dal punto di vista artistico. Noi abbiamo realizzato per ora 7 eventi, perché come diceva Giorgio, il concetto delle frequenze, noi abbiamo immaginato che anche le frequenze sono anche quelle della luce che rifrange il colore, e quindi abbiamo lavorato sui 7 colori dell'arcobaleno, in realtà facendoci un piccolo sconto perché l'indaco era un po' difficile, e quindi invece che l'indaco abbiamo lavorato con il rosa. Quindi noi in realtà abbiamo fatto finora 7 serate, da novembre 2023 a maggio 2024, una al mese, ognuna dedicata a un tema colore. Quindi nella prima serata abbiamo lavorato con il rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosa. Questa volta, per questo, diciamo, incontro finale speciale, abbiamo pensato di lavorare col bianco, che è totale luce, e però di metterci insieme questo aspetto fosforescente. Quindi il tema della serata, per quanto riguarda il live painting su vinile, sarà bianco fosforescente. Fosforescente è quel tipo di vernice che si carica con la luce e poi restituisce al buio il colore, la luce, la luminosità. Quindi l'abbiamo giocata molto sul colore, e sempre sul tema del fluorescente fosforescente stiamo realizzando proprio oggi l'installazione all'interno del corridoio, perché noi come artivismo lavoriamo anche molto con l'installazione site specific, e quindi stiamo realizzando nel corridoio un'installazione luminosa, perché in realtà va anche a coprire un problema funzionale, nel senso che c'è questo corridoio del villaggio globale che aveva un bellissimo murale di guerriglia spam, ma che purtroppo sta cadendo a pezzi, si sta distruggendo, e quindi diciamo che interveniamo artisticamente mentre questo muro verrà, diciamo, nel momento di ristrutturazione, prima che venga ripristinato, noi interveniamo in questo modo, quindi un passaggio in più. E poi oltretutto allestiremo anche dei tavoli dove gli ospiti potranno lavorare con l'arte, nel senso che avremo un tavolo con la pasta modellabile, e quindi dove chi vuole può sedersi e creare qualcosa. E poi un'altra cosa che stiamo facendo è un altro tavolo in cui noi in questi tavoli andiamo a riprodurre, diciamo, dei vinili con il cartoncino, perché in realtà i vinili che noi usiamo durante l'life painting vengono appositamente trattati, perché la pittura su vinile è un po' complessa, allora noi li scartavetriamo e li ridipingiamo di nero, e anche i passanti, anche le persone che verranno al nostro evento, diciamo, potranno provare a sperimentare la pittura su vinile, un vinile un po' finto, però faremo quindi questi tondi neri di cartone, quindi a imitazione del vinile, in cui chi passa può lasciare una piccola traccia di sé. Ci date tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? Le pagine Instagram sono Split Eventi e We Are Artivismo. E poi sul sito di Artivismo stiamo anche lavorando sul catalogo, perché questi vinili poi saranno tutti acquistabili, alcuni sono già stati acquistati durante le serate, ma sono tutti acquistabili, ovviamente la maggior parte del ricavato andrà anche agli artisti. Quindi pagina Instagram sia di Artivismo, We Are Artivismo, che di Split Eventi, e poi dalla pagina Instagram di Artivismo si trova un riferimento con anche il nostro sito internet. L'evento Frequenze Expo a Roma, al Villaggio Globale, giovedì 20 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a due dei curatori, Giorgio e Irene. Alla prossima! Alla prossima, grazie mille! Con Maria Chiara Gianolla, autrice del fumetto Più Rosso d'Amore, all'interno del numero 5 dell'Antifanzine, ben trovata. Grazie, grazie, ben trovata a te. Raccontaci un po' di questo lavoro. Faccio una premessa. Io faccio parte di un coordinamento di collettivi del Tufello, che era appunto il quartiere di Valerio Verbano, che ogni anno lavorano affinché non si perda la memoria di Valerio Verbano e fanno in modo che questa memoria si trasformi in una pratica antifascista quotidiana. Quindi attraverso la costruzione di progetti sociali, una palestra popolare, una scuola popolare, facendo rete con i collettivi studenteschi e tutta una serie di altre esperienze solidali. Oltre a questo, questi collettivi si occupano ogni anno di commemorare la morte di Valerio, organizzando un grande corteo cittadino il 22 febbraio, e quindi il mio fumetto si inserisce in questo contesto qua. Per cui nel 2020, per il quarantennale della morte di Valerio, decidiamo di organizzare tutta una serie di progetti e di attività che, oltre al corteo cittadino, potessero raccontare al quartiere quale fosse la storia di Valerio Verbano e che soprattutto la potesse raccontare ai giovanissimi. Per cui l'idea è stata quella di fare un fumetto, anche perché io, tra i vari progetti sociali appunto che noi coordiniamo come collettivi, curo la scuola popolare di fumetto dentro il laboratorio Puzzle. Quindi il fumetto nasce da queste premesse qua. Questo fumetto è stato distribuito gratuitamente nelle scuole, nel quartiere, negli spazi sociali che ho appena citato, e questo è il motivo per cui il fumetto ha un linguaggio piuttosto semplice, didascalico e in un certo senso emotivo, perché sottolinea la vicenda umana e anche affettiva di Valerio, che era uno studente che tornava da scuola e i genitori lo aspettavano per il pranzo. E sottolinea anche il legame affettivo che c'è e che è rimasto tra questa storia, la sua famiglia, con il quartiere. Infatti il fumetto racconta il legame che il quartiere e che tutti noi come comunità abbiamo mantenuto con Carla Verbano fino alla sua morte, cioè con la mamma di Valerio. E il fumetto racconta anche appunto questi luoghi che ho citato, la palestra popolare, la scuola popolare dedicata appunto alla mamma Carla Verbano. E quindi ci ho tenuto a concludere il fumetto inserendo anche questi luoghi qui, che oltre a essere luoghi fisici e simbolici, sono dei veri e propri presidi di solidarietà e di antifascismo quotidiano. Come lo hai strutturato? raccontando questi passaggi qua. Valerio che torna a casa, il momento dell'aggressione che decido di non mostrare, ma che racconto attraverso gli occhi di Carla, di sua mamma, perché sappiamo che i genitori hanno sentito cosa accadeva nell'altra stanza, tra cui lo sparo, senza poter vedere, senza poter intervenire perché erano legati. E ogni passaggio è accompagnato da una didascalia, diciamo una voce narrante, quindi è un fumetto senza dialoghi diretti, e questa voce narrante racconta all'inizio con una premessa e poi attraverso tutte le vignette chi era Valerio, cosa è stato il suo omicidio e soprattutto in quale contesto storico e politico si è inserito questo omicidio. Facendo poi un riferimento al presente, raccontando appunto i nostri luoghi, i nostri progetti attraverso i quali, Valerio, cerchiamo di tenerlo vivo. Su quali elementi hai voluto porre l'attenzione rispetto alla figura di Valerio Verbano? Anche nel suo caso ho indugiato sugli occhi, sullo sguardo, perché oltre ad essere occhi molto intensi, molto profondi, lui era un fotografo e quindi questo sguardo si fa ancora più importante, più impegnativo, più penetrante, perché lui attraverso la sua macchina fotografica cercava appunto di penetrare dentro quella realtà che si stava impossessando del suo quartiere di Roma, che era una realtà in cui si intrecciava l'estrema destra, il narcotraffico, le forze dell'ordine, e cercava attraverso la macchina fotografica di fare chiarezza su questo intreccio perverso e sperava probabilmente di poterlo portare alla luce, ma il suo dossier appunto è tra le varie cose che non sono più state ritrovate. Quindi sicuramente gli occhi di Valerio e successivamente gli occhi di sua mamma Carla, che poi diventano uno sguardo collettivo, per cui sono gli occhi di tutti noi, ed è un invito a mantenerli aperti questi occhi ancora oggi. La scelta del titolo? È un riferimento alla canzone di Rino Gaetano, Aida, perché quella è una canzone che parla delle ferite dell'Italia e quindi insomma mi sembrava un titolo appropriato che si riferisce al passaggio, no? Cioè al passaggio in cui questo colore che si riferisce al dolore, al del sangue versato, diventa anche la tonalità che tiene accesi i nostri cuori, Più rosso d'amor. Il fumetto Più rosso d'amor, storia di Valerio Verbano, inserito in Antifanzine numero 5. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Maria Chiara Gianolla. Alla prossima! Grazie, richiamerei anche al corteo cittadino del 22 febbraio, come ogni anno, appuntamento alle 16 a Via Montebianco e poi si concluderà con un grande concerto a Via Monte Ruggero. Con Paolo Piacentini, autore del libro In cammino per un nuovo umanesimo. Una presentazione a Roma al Punto Turing, giovedì 20 febbraio 2025. Ben trovato. Grazie, ben trovato a te Federico, ben trovato a voi. Prima di tutto è stato un cammino, per l'appunto, che abbiamo anche presentato insieme ed è diventato un libro. Ce ne parli? Sì, è diventato un libro che racconta in forma un po' anche, devo dire, romanzata, insomma, il viaggio, un po' come era Appennino Atto d'Amore, l'altro libro che fece sulla traversata in Appennino. Ed è appunto il racconto di questi oltre 300 chilometri che ci conducono dal parco dei Monti Lucretili, da Montorio Romano fino ad Arcidosso, ed è legato in particolare come ispirazione alla figura di Davide Lazzaretti, questo Cristo della Miata, questo eretico della seconda metà dell'Ottocento, che visse per un periodo dopo che venne rifiutata la sua regola giurisdavitica da Papa Pio IX in un eremo a Montorio Romano. Quindi abbiamo deciso con questo mio amico monaco Zen, maestro Zen Pino Soden Palumbo, che appunto vive e ha il suo tempio Zen lì nella zona dei Monti Lucretili, di fare un collegamento proprio fisico tra questi due luoghi, cioè il Monte Labbro, quindi Arcidosso, dove mise in piedi questa comunità giurisdavitica, e poi Montorio Romano, dove appunto stette lì per qualche tempo. Era un visionario, un barrocciaio, una persona molto semplice, e però questa figura ha rappresentato davvero in quel momento storico una rottura sia con lo Stato, no, sabato, che con la Chiesa, tant'è vero che poi alla fine fu ucciso durante un corteo pacifico, una sorta di processione lì ad Arcidosso, e per molto tempo sembrò che questa uccisione fosse stata causata da così, uno sparo di questo carabiniere, invece insomma poi si venne a sapere anche nei vari processi che fu proprio una cosa voluta. Insomma, di Davide e di Lazzaretti ne parlano addirittura Gramsci nel Guadagni dal carcere, scrisse addirittura Curcio, mi pare, quando era studente a Trento, sociologia. Comunque insomma è un personaggio particolare, è un'ispirazione del Cammino per un umanismo, da cui nasce anche un manifesto redatto da me e da Pino Sodem a Lumbo, che si trova nelle prime pagine del libro, è legato al fatto che noi in questo cammino, un cammino un po' originale, particolare, abbiamo ricercato tutte le storie di piccole comunità, di giovani o meno giovani che vivono nei territori e lo rianimano secondo un certo spirito anche di legame col territorio. Quindi è un cammino che cerca di raccontare tante storie e diventerà un cammino permanente. Quest'anno lo ripercorreremo varie volte, faremo anche l'iniziativa ad aprile, magari ci torniamo. Quindi ecco, insomma, è un cammino che vuole animare i territori in una certa direzione e vogliamo che siano le comunità locali a prendersene cura. In questi due giorni, per esempio, sono qui a Torre Alfina perché faremo delle iniziative sempre legate al cammino ma con le comunità locali. Quante tappe è il cammino e che partecipazione c'è stata? Sono 15 tappe, la partecipazione nei primi due anni era un gruppo molto vario di 30-40 persone, però considera che abbiamo fatto due viaggi promozionali. Adesso il cammino ha un suo sito che dobbiamo implementare, un suo blog, io appunto lo ripercorrerò anche ad aprile e quindi ci saranno sicuramente poi delle persone che lo cominceranno a fare da soli. Però ecco, quello che vogliamo è che il cammino venga vissuto come esperienza di conoscenza del territorio, delle singole tappe, dei singoli luoghi, in modo più approfondito da parte delle popolazioni locali, delle comunità locali, cioè devono essere loro che sentono che questo cammino gli può dare qualcosa in più di conoscenza anche del proprio territorio. Come lo hai strutturato il libro? Il libro praticamente ha una parte iniziale con una premessa, poi c'è il manifesto del cammino, poi c'è il racconto del viaggio, che è appunto anche un po' romanzato, con molti aneddoti, insomma, particolari, e poi c'è una parte, come metto sempre nei miei libri, di riflessione invece su quello che io vorrei che fossero i cammini nel futuro, che cosa vuol dire anche camminare nei territori da parte, prima di tutto, delle comunità locali, prima ancora che di chi lo fruisce attraverso una forma di turismo lento, e poi c'è un'appendice, dove c'è anche un ricordo di Ernesto Balducci, che era molto legato chiaramente alla figura di della Zaretti, anche lui un eretico, insomma, e quindi è un libro che da una parte racconta appunto il viaggio, non è una guida escursionistica, è un racconto del viaggio, poi forse uscirà anche una guida escursionistica, e c'è la parte però molto riflessiva in cui io lancio un po' l'idea di quello che deve essere il rapporto con i territori, il fatto per esempio di togliere quest'idea che ci siano dei luoghi più importanti degli altri, quindi abbassare questa gerarchizzazione dei luoghi, no? Perché magari anche quando uno cammina sempre davanti la mente e non vede quello che invece ha davanti agli occhi in ogni passo, in ogni momento, no? Quindi è il discorso anche del prendersi cura dei luoghi, una riflessione su cosa vuol dire abitare i luoghi anche da parte di persone così che stanno solo viaggiando. Per te che esperienza è stata? Come al solito molto forte, un'esperienza chiaramente anche accompagnando un gruppo di persone che erano molto motivate, è stata come sempre, come per me il camminare, i cammini in generale, come li vivo sempre, sembra sempre che è la prima volta, no? Le emozioni sono sempre molto forti, sempre un'esperienza indimenticabile, insomma, e soprattutto è stata un'esperienza di conoscenza di tante persone, giovani, anche di, per esempio, persone che vogliono mettere in piedi un ecovillaggio nella zona, quando ci avviciniamo a Santa Fiora, che è una zona della Miata. Poi ecco, è un'altra cosa importante, che questo libro racconta anche delle presenze spirituali di un certo rilievo. Vicino a Monte Romano c'è anche un tempio buddista, Santa Cittarama, sono dei monaci di un buddismo thailandese, i monaci della foresta. Poi c'è Merigar, che è la quarta scuola più importante di buddismo tibetano, che è proprio nata lì a Merigar, che è sotto il Monte Labbro, tra l'altro, c'è un luogo ricco di energia. Sarebbe interessante, secondo me, a parte fare tutto il cammino, ma andare anche sul Monte Labbro, perché è un luogo pieno di energia, davvero, è impressionante. Ho portato lì persone di qualsiasi credo spirituale o religioso o di nessun credo, eppure arrivati su hanno trovato un'energia molto molto particolare, un luogo, devo dire, magico, insomma. Forse non a caso Davide Lazzaretti nella sua follia trova sul Monte Labbro questa ispirazione. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più sul cammino? C'è questo blog www.camminoperunnuovoumanesimo.org, però insomma va poi implementato. Il libro In cammino per un nuovo umanesimo, una presentazione a Roma al Punto Turing, giovedì 20 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'autore Paolo Piacentini. Alla prossima! Grazie, grazie a voi, grazie Federico, grazie. con lo storico Davide Conti per presentare l'incontro I crimini di guerra rimossi dell'Italia fascista a Roma, alla sede Ampi del Trullo Magliana, mercoledì 19 febbraio 2025. Ben trovato. Grazie a voi. Di cosa si tratta? L'incontro si propone di ragionare attorno alla vicenda dei crimini di guerra italiani compiuti nel quadro del secondo conflitto mondiale, quindi durante la guerra fascista, nei Balcani, quindi in Grecia, Jugoslavia e Albania, in Unione Sovietica, in Francia, in Libia, in Eritrea, in Etiopia. Ovunque il Regio Esercito italiano e le camicie nere, i battaglioni M, hanno investito le popolazioni nel quadro della guerra totale nazifascista e hanno compiuto crimini di guerra e contro l'umanità. Una condotta completamente rimossa all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, in ragione della realpolitik della Guerra Fredda, che convinse soprattutto gli alleati angloamericani che stavano costruendo l'alleanza atlantica che includeva l'Italia, ad evitare una Norimberga nel nostro paese, cioè un grande processo nei confronti non solo dei gerarchi ma anche dei vertici militari e amministrativi del fascismo, che avrebbe di fatto epurato lo Stato italiano e aperto le porte ad una sostituzione di questo personale politico e militare con personale politico e militare proveniente dalla Resistenza, in larga parte afferente ai partiti comunista e socialista, all'epoca alleati di Mosca. In questo quadro, quei crimini vennero rimossi dalla dimensione internazionale anche dei negoziati di pace e dall'altra parte concorse questa rimozione ad evitare anche una riflessione più compiuta rispetto all'eredità e al precipitato storico del fascismo dentro la società italiana e nella nostra opinione pubblica nazionale, alimentando quel mito falso degli italiani brava gente che ancora oggi è duro a morire. Un incontro anche a partire da due tuoi volumi, Criminali di guerra italiani e L'occupazione italiana dei Balcani, esatto? Sì, appunto i due libri provano a proporre attraverso una documentazione in larga parte inedita quando uscirono un ragionamento su questi due temi, cioè sulla innanzitutto misura, sulla dimensione e quindi sulla profondità dell'attività militare e dei danni che provocò la parte italiana specificatamente nei Balcani e quindi le rappresaglie, le deportazioni di centinaia di migliaia di jugoslavi, la distruzione delle case. Gli italiani in Jugoslavia venivano chiamati dalla popolazione locale italianski palicuce, italiani bruciatetti, perché erano soliti non solo deportare o uccidere chiunque si opponesse all'occupazione, ma anche distruggere le case per avviare un processo di abbandono di quei territori occupati da parte della popolazione che veniva definita allogena, cioè locale. E contestualmente a questo, il secondo volume, Criminali di guerra, appunto, racconta la storia dell'impunità, cioè racconta i motivi, le ragioni che resero possibile in Italia eludere completamente qualsiasi tipo di sanzione simbolica, oltre che giudiziaria, politica, oltre che storica, e che appunto ha finito per alimentare da un lato il mito degli italiani brava gente e dall'altro la rappresentazione del fascismo come regime sostanzialmente bonario che, come recita la narrazione autoassolutoria, se non avesse promulgato le leggi razziali e non avesse fatto la guerra insieme ad Hitler, sarebbe stato tutto sommato un regime autoritario sì, ma che aveva contribuito alla modernizzazione del paese. Ecco, questi volumi, questi incontri che promuoviamo si propongono proprio di smentire queste narrazioni controfattuali e riportare invece alla discussione, all'ordine del giorno, specie oggi, il tema dell'eredità del fascismo e di quanto questo abbia inciso nella formazione anche dello Stato repubblicano nel quadro della transizione appunto dal fascismo alla democrazia. È possibile anche fare numeri nel senso di vittime del fascismo italiano all'estero, ma anche di responsabili che sono rimasti impuniti? Sì, assolutamente. Ad esempio in Jugoslavia, per mano nazifascista, cioè italiana e tedesca prevalentemente, si contarono alla fine del conflitto oltre 1 milione di vittime, 1 milione di morti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale le Nazioni Unite, l'ONU, raccolsero dai paesi che erano stati invasi dall'Italia delle lunghe liste presentate da quei governi, da quegli stati, in cui erano comprese oltre 1000 militari italiani di alto e altissimo vertice che erano accusati di crimini contro l'umanità, di torture nei confronti delle donne e degli uomini della resistenza, di deportazioni ad esempio di 100.000 jugoslavi nei campi di internamento costruiti in Italia a partire dal 1935 dal regime, e ancora di feroci operazioni militari che, come dicevamo prima, portarono allo spopolamento di intere aree, di intere regioni, soprattutto quelle afferenti al controllo italiano, quindi la cosiddetta provincia di Lubiana in Slovenia, la regione del Montenegro e una parte della Croazia. Queste aree vennero investite di una misura militare repressiva che portò appunto nella sola Jugoslavia ad 1 milione di morti. Ma lo stesso avvenne in Grecia e in Albania. Noi potremmo indicare almeno 3 gravi e grandi episodi di strage che coinvolsero nei Balcani gli italiani. A Podun in Jugoslavia nel luglio del 42, dove vennero fucilate centinaia di persone, oggi ricordate da una enorme stele che appunto racconta con i nomi delle vittime i fatti di quell'estate del 42. Potremmo citare Domenikon, un piccolo villaggio nella Grecia occupata dagli italiani, che divenne teatro di una delle più efferate stragi contro i civili, contro la popolazione locale. Potremmo citare la cosiddetta Marzabotto albanese, ovvero la strage di Mallakasha, dove appunto gli italiani non risparmiarono brutalità nei confronti della popolazione civile e dei partigiani, portando alla morte centinaia e centinaia di persone. Ecco, questi 3 esempi che rappresentano 3 momenti diversi dell'occupazione italiana dei Balcani, in Grecia, Albania e Jugoslavia, mostrano anche, cifre alla mano, la dimensione del fenomeno di cui parliamo quando intendiamo affrontare il tema dei crimini di guerra del Regio Esercito delle Camicie Nere italiane durante la Seconda Guerra Mondiale. L'incontro I crimini di guerra rimossi dell'Italia fascista a Roma, all'Ampi sezione Trullo Magliana Franco Bartolini, mercoledì 19 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento allo storico Davide Conti. Alla prossima! Grazie a voi! È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ed eccola la nostra Roma teatrale, chissà cosa ci aspetta questa settimana. Cominciamo dal teatro Tor Bella Monaca, dove ci saranno ben 4 spettacoli questa settimana, quindi si torna in sala piccola e si torna in sala grande del teatro Tor Bella Monaca. Dunque, questa sera 18 febbraio in sala piccola recital, spettacolo scritto, diretto e rovinato dai 101, questo è il nome diciamo di compagnia di Luca, Flavio e Enzo, che sono pronti a tornare in scena per far ridere fino alle lacrime. Quindi questo spettacolo, questo recital a tutti gli effetti è un recital, non è soltanto il titolo dello spettacolo, sketch, battute, gag esileranti, solo questa sera. Mentre invece, sempre in sala piccola, dal 19 al 22 di febbraio va in scena il Serenissimo, spettacolo diretto da Gabriele Namio. Parla di mediocrazia, cioè un regime totalitario fondato sull'espropriazione di beni quali l'emozione, il sentimento, la vocazione, la coscienza, ai danni dei propri cittadini. Ecco, la mediocrazia, che è qualcosa che si avvicina abbastanza a qualcosa che conosciamo e molto bene, sarà in scena dal 19 al 22 di febbraio al Teatro Tor Bella Monaca, dove il 20 febbraio vedremo Calcoli, ovvero L'arte dell'inganno, testo di Gianni Clementi, la regia di Blas Roca Rei. Soltanto in data secca, appunto 20 febbraio, un sottosegretario degli esteri che decide di passare all'insaputa della consorte un weekend di fuoco con una soubrette televisiva in uno chalet isolato in montagna, prestatogli dal suo portaborse. E quindi cosa può succedere? Ahimè, lo andremo a scoprire. 20 febbraio, non sarà nulla di buono a quanto pare, insomma, un thriller, commedia, questo qui. Ma invece, sempre nella sala grande, dal 21 al 23 di febbraio, andiamo a vedere questo spettacolo di Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci, che si chiama Tanto vale divertirsi. E quindi, appunto, come dice il titolo, una commedia dedicata esclusivamente alla risata, cioè al modo di prendersi in giro, prendere in giro la chiave comica che permette di leggere un po' con stili magari diversi, però un po' tutto quello che riguarda il nostro tempo. Dunque, il proprio tempo, in ogni tempo si può dire questa cosa qui. Poi, dunque, andiamo con ordine, perché al Teatro 7, 20-23 di febbraio andremo a vedere questo Il pomo della discordia di Salvatore Riggi, in scena anche con altri attori, la regia di Giorgia Lunghi. Anche qui, insomma, si tratta di ironia raffinata, pur sempre ironia. Mario, Stefano e Sebastiano, tre amici laureati e una condizione economica e lavorativa non proprio ideale, ma poi a un certo punto la svolta, e la svolta andremo a scoprire. Il pomo della discordia, dal 20 al 23 febbraio, Teatro 7 Off. Poi procediamo al Teatro Belli, in scena questo spettacolo 21-23 febbraio, Mammut di Fartagnan Teatro, che fa regia collettiva di questo testo di Rodolfo Ciulla, e siamo in un futuro non molto lontano, quindi con blackout energetici continui, e dove abbiamo colonizzato Marte ed è diventato un'enorme speculazione edilizia. E questo spettacolo racconta di Fred, un agente immobiliare frustrato che deve rimettere ordine nella propria vita. In un contesto così, però, sfido a trovare il povero Fred. Dunque, Teatro Belli, 21-23 febbraio, Vita e morte di un'intelligenza artificiale, Mammut, con Fartagnan Teatro. Poi proseguiamo con questo lavoro al Teatro di Villa Lazzaroni, Una storia vera fatta di bugie. Sarà in scena dal 21 al 23 di febbraio, la regia di Yasser Mohamed, e in scena vari attori, ed è tratto dall'omonimo romanzo di Jennifer Clement, Una storia vera fatta di bugie. La poetessa e scrittrice statunitense scrive questo romanzo come una fiaba intervallata da filastrocche poetiche che però hanno al loro interno delle verità amare. C'è il tema della discriminazione di classe, delle disuguaglianze, come conseguenza della dominazione coloniale. C'è Leonora che vive con i suoi sei fratelli e la mamma in un villaggio fuori città del Messico. 21-23 febbraio, per questo Una storia vera fatta di bugie, Teatro di Villa Lazzaroni. Al Teatro India va in scena Anna Ammirati con musica originale Live Electronics di Mario Conte, con Napsound, 18-23 di febbraio, fondendo in qualche modo Edoardo De Filippo con la musica elettronica, quindi cercando di interpretare il lascito della poesia napoletana attraverso gli strumenti della videoarte, della musica elettronica, appunto. È un'opera che risale al 2018, che ritorna adesso in una nuova veste e con un impianto sonoro ampliato, appunto, con la musica di Mario Conte. Quindi 18-23 febbraio, Teatro India, per Anna Ammirati, attrice che abbiamo apprezzato in vari momenti. All'Ambra Iovinelli, invece, anche qui una commedia, una comicità sospesa tra realtà e fantasia, con Maria Amelia Monti, con Claudia Guzmano, che sono protagonista di questo Strappo alla regola, scritto e diretto da Edoardo Erba. Si comincia il 19 di febbraio e si andrà avanti fino al 2 di marzo. In scena ci saranno, oltre a loro, la partecipazione di attori come Asia Argento, Sebastiano Somma, Marina Massironi. Quindi, insomma, molto interessante questo lavoro in scena al Teatro Ambra Iovinelli dal 19 di febbraio. Mentre invece al Teatro Palladium, il 22, che precisamente sarà sabato, andremo a vedere in prima assoluta La Banca Universale, ed è uno spettacolo in data secca che è tratto, ispirato al celebre romanzo L'Argent di Émile Zola. L'opera permette di spiegare il funzionamento della finanza e dei suoi guasti, delle sue crisi di ieri e di oggi, attraverso una rielaborazione tra narrazione e opera musicale. Anche qui, insomma, il racconto è di Sandro Cappelletto. In scena ci saranno poi strumenti e musica, quindi sabato 22 febbraio con questo La Banca Universale al Teatro Palladium. Procediamo perché al Teatro Lo Spazio ci andiamo con Jean-Paul Sartre a porte chiuse, quindi torniamo ad autori francesi come nel precedente lavoro che abbiamo ricordato, a porte chiuse di Jean-Paul Sartre dal 21 al 23 febbraio appunto al Teatro Lo Spazio con la regia di Alessia Tona e vari attori, ed è un dramma, un valletto introduce in una stanza un uomo chiamato Garcin. La stanza non ha nulla, né finestre né specchi, e si capirà presto che è un luogo dell'inferno. Quindi i personaggi che appariranno attorno a Garcin saranno personaggi che hanno a che vedere con la sua propria dannazione. E quindi 21-23 febbraio a porte chiuse, testo classico di Jean-Paul Sartre, al Teatro Lo Spazio. Poi alla Fortezza Est, 20-22 di febbraio, Quell'attimo di beatitudine, questo lavoro di Christian Di Filippo, è un monologo sull'uomo, la fede e la società contemporanea, quindi un tema molto molto caldo, è uno spettacolo che ha vinto il Palio Poetico Musicale Teatrale Ermo Colle, e l'uomo e la società contemporanea, insomma. N è il protagonista, vive in una Citroen Diana da 10 anni e passa le giornate a guardare la gente negli appartamenti del palazzo di fronte attraverso le finestre. Gente che fa la stessa vita, ogni famiglia fa la stessa vita. N scrive delle lettere e le scrive anche per far sì che il quartiere venga tenuto in modo decoroso, apportando migliorie, ma nessuno si è mai accorto di lui. Un giorno, però, i condomini decidono così di mandarlo via e qui inizia ciò che ci interessa scoprire. 20-22 febbraio, Fortezza Est, per Quell'attimo di beatitudine. Ancora poi andiamo all'Altrove Teatro Studio, perché Agustina Risotto Interlandi dal 21 al 23 di febbraio porta in scena questo lavoro insieme con Giorgio Cantarini. Si tratta di due personaggi, Alan e Eva, un matrimonio, un giardino. Alan, il marito perfetto, attento, e non riesce però del tutto a comprendere il mondo di Eva, che è un po' diversa, scontrosa, non proprio la moglie ideale. Quindi nel rapporto tra di loro sicuramente, ecco, andremo a vedere un po' di quello che riguarda i nostri vari rapporti. 21-23 di febbraio, questo spettacolo si chiama Altrove, proprio come il teatro, e questo penso che sia, non sia voluto, ma sicuramente un bel gioco di parole. Quindi Altrove all'Altrove dal 21 al 23 di febbraio. E dunque Teatro Marconi, ricordo invece 20-21 febbraio Miti, monologo scritto, diretto e interpretato da Felice Della Corte, appunto su uomini e donne che hanno inciso sui mutamenti del mondo. Poi per Expo Teatro Italiano Contemporaneo al Teatro Belli, oltre Mammut andremo a vedere anche dal 18 al 20 febbraio Iliade di Corrado D'Elia, Iliade chiaramente il capolavoro, il poema omerico. Siamo di fronte appunto a un cantore moderno per riavvolgere il filo che collega mito e narrazione del presente. Questo c'è in questo lavoro. Poi, dunque, ancora Teatro Argo. Questa settimana l'arrivo, insomma, di un personaggio molto noto a tutti, in realtà ormai, Lodo Guenzi, in Toccando il vuoto di David Craig, con la regia di Silvio Peroni, abituato insomma alla drammaturgia anglofona, e un testo dello scozzese David Craig, per la prima volta rappresentato in Italia, e ritratto da una storia vera. La pièce è ambientata nel 1985 durante la scalata nelle Ande peruviane. Gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates restano vittime di un incidente durante la discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon è costretto, per non cadere anche lui, a tagliare la corda da arrampicata. Aiuto! Cosa avremmo fatto noi al posto di Simon? Questo lo andiamo a scoprire al Teatro Argo dal 20 al 23 febbraio con Toccando il vuoto con Lodo Guenzi. Poi ancora qualcos'altro da dire? Sì, sicuramente. Al Teatro India c'è anche uno spettacolo per i più piccolini, 21-23 febbraio, dai 6 ai 12 anni, per questo Prometeo. La regia è firmata, anche la sceneggiatura, da Olympus Kids, ma la performer in scena è Beatrice Baruffini, quindi una sicurezza dal punto di vista degli spettacoli per le nuove generazioni. Cosa succede quando presentiamo un mito greco davanti agli occhi di bambine e bambini? E nelle loro menti cosa succede quando sentono parlare di Zeus, Prometeo, Demetra, eccetera? E questo è quello che cerchiamo di andare a capire insieme a Beatrice Baruffini al Teatro India dal 21 al 23 di febbraio. Anche la danza non mancherà in questa settimana perché continua e conclude Equilibrio, il festival all'Auditorium, con mercoledì 19 febbraio, cioè domani, Anne Teresa de Kersmacher con Radwan Mrzyga, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Sempre in Sala Petrassi, giovedì 20, Jesus Rubio Gamo e Kukai Danza con Cialaparta, mentre invece gli ultimi due giorni, venerdì e sabato, andremo prima di tutto venerdì al Teatro Palladium in trasferta con Abbondanza Bertoni e Viro, mentre invece torniamo con l'ultima serata al Teatro dell'Auditorium con Marco da Silva Ferreira e il suo Bisonte. Mentre andiamo a vedere gli ultimi lavori con cui chiudere un po' la settimana al Teatro Vittoria, dal 20 febbraio fino al 2 di marzo, Corrado Nuzio e Maria Di Biase con un capolavoro del teatro dell'assurdo come Delirio a due di Eugène Ionesco, uno scherzo teatrale dove il comico fa trasparire in realtà la società che affoga nella tragedia contemporanea, e quindi Delirio a due al Teatro Vittoria. Segnalo dunque che al Teatro di Roma il 20 febbraio alle ore 17:30 in Sala Oceano ci sarà la presentazione del libro Perdutamente. Tutto ciò che appunto ci rimanda a quel periodo storico, insomma, nel Teatro di Roma diretto da Gabriele Lavia nell'autunno 2012, 18 compagnie che sono state chiamate ad abitare spazi, sperimentare forme di creazione artistica attorno al tema della perdita. Tutto questo rivive in un libro. Interverranno Graziano Graziani, Katia Ipaso, Attilio Scarpellini in conversazioni con artiste e artisti che hanno partecipato al progetto, quindi appuntamento direi da non perdere al Teatro India in Sala Oceano. Ancora una delle compagnie che partecipò a quell'avventura è proprio Frosini Timpano, che tornano al Teatro Basilica con Acqua di Colonia dal 19 al 23 di febbraio, cioè un lavoro dedicato appunto al colonialismo, ai colonialisti che siamo stati e in qualche modo ai colonialisti che forse un po' siamo ancora. 19-23 di febbraio al Teatro Basilica. Ultimo appuntamento di cui fare menzione questa settimana è un po' uno spettacolo che io ho visto e che consiglio a tutti di vedere al Teatro Vascello, regia di Lisa Ferlazzonatoli e Alessandro Ferroni, da questa sera fino al 23 di febbraio, Il Ministero della Solitudine, spettacolo di La Casa d'Argilla con Caterina Carpio, Tania Garriba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano, tra i nostri migliori attori del Teatro Nazionale, testo che ha vinto anche numerosi premi. La drammaturgia è stata curata da Fabrizio Sinisi, quindi cosa dire, i nostri migliori attori con uno dei nostri migliori drammaturghi, una delle nostre migliori compagnie, perché non cosa ci ferma dall'andarlo a vedere? Si tratta di una scrittura, diciamo, dell'ensemble che Fabrizio Sinisi ha curato, e lo spunto nasce da una notizia di cronaca internazionale. Nel gennaio 2018 la Gran Bretagna ha nominato ufficialmente un ministro della solitudine, il primo al mondo, per far fronte ai disagi che questa può provocare a livello emotivo, fisico e sociale. L'anno successivo viene inaugurato il relativo ministero, istituzione dalla natura politicamente ambigua e dalle finalità incerte. Questo ci dice la scheda. Partire da questa vicenda, una scrittura per cinque attori con incontri, scontri, incidenti, flash che portano all'interno di una continua relazione fra i vari personaggi, davvero intrigante. Dunque, Ministero della Solitudine, 18-23 febbraio al Teatro Vascello. E con questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.